2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 19 ottobre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Io sono Enrico Pagliarini. Potete raggiungerci via posta elettronica 2024@radio24.it oppure attraverso Facebook, Twitter, cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini. In questa puntata abbiamo tantissime cose. Vi annuncio fin da ora che alcune delle nostre interviste saranno in versione integrale solo nella nostra versione podcast. Quindi nella nostra puntata abbiamo ridotto, per farci stare tanti argomenti, alcune delle interviste molto interessanti. Tra poco parleremo di indoor positioning, cioè di posizionamento all'interno degli edifici. Ma iniziamo con alcune notizie della settimana. Digital News. È stato pubblicato il consueto aggiornamento del rapporto sullo stato di Internet di Akamai, The State of the Net, The State of the Internet. Akamai è una società che distribuisce contenuti su Internet che, avendo macchine diffuse su tutta la rete mondiale, può fare analisi di quello che accade. Allora, in termini di velocità di connessione, la Corea del Sud continua a guidare la classifica mondiale con una velocità media di 13,3 megabits al secondo, Giappone 12 megabits, Svizzera 11, Svizzera è il terzo paese al mondo, sopra i 10 megabits ci sono Hong Kong, Lituania e Olanda, gli Stati Uniti sono ottavi con una velocità media di 8,7. Come sono messi i paesi più simili a noi, almeno in Europa? Gran Bretagna 8,4, Germania 7,3, Spagna 5,9, Francia 5,7, Italia 4,9 megabits al secondo. Naturalmente quelle sono velocità medie rilevate dalle macchine di Akamai, comunque l'affidabilità di questa rilevazione è sicuramente molto buona. C'è da dire che il rapporto è molto lungo, molto dettagliato, ci sono un sacco di notizie, è disponibile online, quindi se siete curiosi, avete tempo per l'analisi, a me piacciono molto questi rapporti. Allora, vi dico solo che nell'analisi di Akamai c'è posto anche per un'analisi dei browser più utilizzati. Si scopre che Safari è il programma di navigazione più usato al mondo in ambito mobile, con una quota di utilizzo, pensate, doppia rispetto ai browser utilizzati su Android. Poiché la quota di terminali Android è di circa l'80% rispetto al 15% di iOS, quindi di Apple, dove vengono utilizzati prevalentemente Safari, questi dati ci suggeriscono che molti, ci confermano, diciamo così, che molti possessori di smartphone Android lo usano principalmente come telefono e senza navigare, senza utilizzare internet. Digital News. BlackBerry ha cominciato a distribuire anche in Italia il nuovo smartphone BlackBerry Z30, completamente touch, con display 5 pollici, ottimo terminale con la tradizionale attenzione alla sicurezza di BlackBerry. Nel frattempo si continua a speculare sul futuro dell'azienda canadese e negli ultimi giorni è rispuntato il nome della cinese Lenovo come possibile acquirente. Una notizia che arriva da Bruxelles: Samsung ha offerto di concedere in licenza i suoi brevetti standard essenziali per i prossimi 5 anni e di interrompere le controversie legali sulla loro violazione o sulla loro possibile violazione. In cambio, l'azienda coreana chiede di mettere fine ad un'indagine antitrust che potrebbe costarle, pensate, 18 miliardi di dollari. La Commissione europea accusa Samsung di avere abusato dei suoi brevetti e della sua posizione dominante per limitare la concorrenza. La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato di nuovo il sito The Pirate Bay, la nuova versione di The Pirate Bay, dopo una denuncia della Federazione dell'Industria Musicale Italiana. È stato inibito thepiratebay.sx e altri 4 siti su cui si trovano i file torrent che vengono utilizzati nei sistemi di file sharing per cercare musica oppure anche altro tipo di contenuti online. Un'operazione, diciamo, poco utile, potremmo dire del tutto inutile, visto che basta un secondo per aggirare questi filtri, basta cambiare i DNS, ma quelli che vanno a cercare la musica pirata lo sanno benissimo, ma soprattutto è che ci sono decine di siti che offrono musica e film anche in streaming streaming gratis. Sicuramente il problema è grave, va combattuto anche in alcuni casi con violenza, ma diciamo che operazioni del genere servono effettivamente a poco. La prossima settimana da segnalare ci sono due eventi internazionali. Il 22 ottobre Apple presenta alcune novità relative ad iPad, mentre nello stesso giorno Nokia dovrebbe presentare un nuovo tablet, oltre a novità su smartphone. A Milano ricordiamo che dal 23 al 25 ottobre c'è l'edizione più importante di SMAU. Tra le cose che ci siamo segnati da approfondire nelle prossime settimane, come sta cambiando l'approccio alla privacy sia di Facebook che di Google, che hanno annunciato novità negli ultimi giorni. Vi invito a leggere qualche cosa su internet, trovate sicuramente molte informazioni, ne parleremo e vi proporremo presto un approfondimento con i nostri esperti. Dunque, adesso parliamo di quello che viene definito indoor positioning, cioè posizionamento all'interno degli edifici. Noi siamo abituati, cioè ormai tutti sanno come funziona il GPS e soprattutto come funzionano gli strumenti che riescono a captare i segnali GPS. Il navigatore che noi utilizziamo in automobile oppure il navigatore che ormai esistono su tutti gli smartphone sono un ottimo esempio e più o meno insomma tutti sanno come funziona. Abbiamo una mappa e con molta facilità riusciamo a sapere dove ci troviamo proprio grazie ai segnali del sistema satellitare GPS e poi dal prossimo anno potremo utilizzare anche il sistema satellitare europeo Galileo. Ma cosa succede quando entriamo all'interno di un edificio? Beh, quel segnale si perde, quindi diciamo che se non conosciamo l'edificio o comunque se l'edificio è molto grande, molto complesso, c'è il rischio di perdersi. Poi naturalmente nell'edificio troviamo persone, cartelli che ci indicano la strada, ma possiamo pensare che in un prossimo futuro i sistemi di posizionamento si estenderanno anche all'interno degli edifici. E questo trend si chiama indoor positioning. È una cosa molto interessante, anche in questo caso la tecnologia è già a disposizione, si deve solo sviluppare, poi attorno a questa tecnologia la fantasia di chi si occupa di marketing digitale o di tante altre cose deve, ma anche di servizi o di soluzioni per le aziende, deve sviluppare nuovi prodotti e nuovi servizi. Matteo Faggin è uno dei quattro fondatori di Gipstech, una nuova società che si occupa proprio di indoor positioning. Matteo, benvenuto a 2024. Grazie. Voi siete quattro fondatori, giusto? Sì, quattro amici al bar. Quattro amici al bar per il momento che... Allora, siete in fase di, si dice negli Stati Uniti, patenting, quindi in fase di presentazione dei brevetti di una tecnologia per l'indoor positioning. Allora, lascio a te dire innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Quando parliamo di posizionamento all'interno degli edifici, che cosa intendiamo? Intendiamo qualcosa, come stavi anticipando, di molto simile a quello che già conosciamo all'esterno, cioè il GPS. All'interno degli edifici il GPS non funziona perché è schermato dagli edifici stessi, ma anche se funzionasse non ci andrebbe bene, in quanto le precisioni a cui si arriva, che sono nell'ordine della ventina di metri, non, mentre ci vanno bene quando stiamo andando in macchina a 50 all'ora, quando siamo davanti a una scrivania, 20 metri in più o in meno fanno la differenza. Quindi c'è un problema, appunto, che il segnale non arriva e comunque la precisione non è sufficiente. E comunque, diciamo, in prospettiva, visto che fra qualche mese cominceremo a utilizzare anche Galileo, che ha precisioni più elevate, o comunque anche con il GPS si possono arrivare, insomma, si può avere anche una precisione più elevata, il problema vero è che in molti edifici il segnale del GPS, cioè il segnale dei satelliti, non arriva, comunque arriva in zone limitrofe, cioè dove ci sono le finestre, eccetera, eccetera. Quindi l'esigenza del mercato, poi vedremo anche per fare che cosa, è quella di riuscire a sfruttare sistemi, banalmente stiamo parlando degli smartphone, giusto? Corretto. Gli smartphone che ci dicano dove ci troviamo, soprattutto dove dobbiamo andare all'interno di un edificio. Questa è un po' l'esigenza. Esatto, questa è l'esigenza percepita da più parti e quando c'è un bisogno di solito qualcuno si ingegna a risolverlo. sono in molti quelli che si stanno ingegnando a trovare una soluzione. La soluzione finora più utilizzata, anche se non ha riscontrato il grande interesse di mercato che ci si poteva aspettare, è quella del posizionamento fatto sui sistemi Wi-Fi. Quindi, invece dei satelliti, andiamo a mappare quella che è l'emissione appunto di segnale Wi-Fi e poi lo usiamo per fare la trilaterazione, quindi per fare il posizionamento. Diciamo che l'idea utilizzando il Wi-Fi è: io creo una rete molto fitta di antennine Wi-Fi e quindi la posso visualizzare sulla mappa di un edificio proprio come una rete, e quando io entro con il mio smartphone con il Wi-Fi acceso, con un'applicazione ad hoc, creata ad hoc, il sistema, triangolando i segnali del Wi-Fi, io posso sapere se mi trovo nella stanza X o nella stanza Y, eccetera, eccetera. Arrivando anche a un buon livello di dettaglio, nel senso che si arriva nell'intorno dei 5-7 metri di precisione. Dipende anche dalla tecnologia che poi si utilizza per fare le mappe, le mappature, eccetera, eccetera. Sì. Un livello di precisione appunto abbastanza buono, dipende però dagli utilizzi. Va bene se sono in un corridoio di un grande magazzino, sì, e un centro commerciale, certo. voglio distinguere un negozio dall'altro, una vetrina dall'altro, probabilmente mi è sufficiente. Se invece voglio scendere a livello di capire dov'è il determinato prodotto che cerco nelle corsie di un supermercato, ovviamente 5 metri sono una grande differenza. Sì, certo. Poi ci sono altre tecnologie e poi arriviamo anche alla tecnologia che voi utilizzate, che utilizzerete. Bluetooth, si può usare anche questa tecnologia? Bluetooth si può usare, anche qui dobbiamo andare a installare un'infrastruttura che diventa sempre più dedicata quanto più ci andiamo a specializzare, nel senso che mentre Wi-Fi almeno ha il vantaggio che lo posso usare anche per altre cose e anche per fare la localizzazione, certo. Più andiamo specializzandoci, più il costo di infrastruttura diventa importante, nel senso che un'infrastruttura Bluetooth piuttosto che i beacons, che sono l'ultimo trend, consente una precisione maggiore, si arriva delle antennine che io posso mettere all'interno dell'edificio. Certo, questo ha un costo. Dunque, ci sono altre tecnologie. Ho letto che ci sono aziende che utilizzano sistemi ottici, quindi raggi, fasci di luce che lo smartphone riesce a captare e in questo modo calcolare la posizione. Insomma, ci sono tante tecnologie, perché tu mi dicevi che ci sono molte società, startup che stanno lavorando per l'indoor positioning, anche se ancora possiamo dire che non è un mercato. Sì, il mercato si intravede qualcosa nel futuro. Diciamo che si sente forte l'esigenza da parte di soprattutto delle entità commerciali, quindi di far marketing, di conoscere la posizione del cliente, di sapere come si muove, di dargli le offerte giuste al momento giusto. Magari quando al supermercato appunto passa davanti alla pasta, dargli l'offerta e magari passa oltre, riusciamo a dargli il coupon per comprare la pasta. Diciamo c'è un'esigenza forte a tutte le entità commerciali nel sapere come si muove l'utente e nel riuscire ad attirare la sua attenzione nei grandi spazi commerciali. E quindi, data l'esigenza, tanti si stanno industriando per trovare, dare una soluzione, dare una risposta a questa esigenza. La vostra idea qual è? La nostra idea è quella di utilizzare un altro tipo di segnale guida, il segnale geomagnetico, il campo elettromagnetico terrestre. Che esiste già. Che esiste già in natura. E che mentre in aperta campagna è molto regolare, punta sempre verso il nord magnetico, all'interno degli spazi chiusi, dei normali spazi chiusi se non altro, data la presenza di ferro, acciaio ed altri materiali ferromagnetici, viene distorto e quindi si ha un campo pieno di anomalie, ricco di anomalie. Andando a mappare questo campo e queste anomalie, noi riusciamo a fare una mappa in cui localizzare l'utente e farlo navigare. Sì, navigare anche in questo caso, ribadiamo, sempre con lo smartphone, perché al centro di tutto c'è lo smartphone. Poi naturalmente vedremo cosa succederà, perché uno può anche immaginarsi un futuro in cui tutti dentro al supermercato girano con questo smartphone alla ricerca dei coupon, magari ci si scontra, bisognerà anche trovare dei sistemi anti-collisione tra clienti, ma questo è un altro capitolo. Allora, dovete sapere che negli smartphone sappiamo, non so se tutti lo sanno, che c'è un accelerometro, e quindi quando noi acceleriamo e spostiamo in avanti velocemente lo smartphone, sa che stiamo facendo questa azione. C'è un giroscopio che quindi intercetta i movimenti destra, sinistra, in alto e in basso, ma c'è anche un magnetometro. Che cosa fa? Oggi ben poco. Oggi è quello che ci serve da bussola, da dice dov'è il nord. Sì. Però potenzialmente è uno strumento che va a misurare appunto il campo magnetico. E come tale noi intendiamo usarlo per fare la mappatura dell'ambiente, la mappatura magnetica, e poi per orientare appunto l'utente, localizzare e orientare l'utente all'interno di quell'ambiente. Quindi lo scenario che ci immaginiamo è che ci sia un'applicazione che sfrutta la vostra tecnologia e all'interno di un edificio che è stato mappato, perché appunto bisogna mapparlo e capire com'è il campo elettromagnetico, uno può spostarsi seguendo magari un percorso. Dice: voglio andare nella stanza tal dei tali dall'ufficio del direttore, non so la strada, e il sistema mi ci porta. Oppure voglio trovare lo stand del tale espositore all'interno di una grande fiera e il sistema mi ci porta. Certo. Esatto. E voi dite: la nostra tecnologia si basa su un'infrastruttura che esiste già, che è stata creata con la Terra, cioè, quindi non dovete... Con la Terra o con l'edificio, diciamo che è naturale un po' per modo di dire quella che serve a noi. A noi servono le anomalie, quindi che ci siano... Vabbè, diciamo comunque il punto di partenza è il campo elettromagnetico della Terra, quindi insomma non bisogna installare nessuna infrastruttura. Se viene a meno la corrente elettrica... Funzioniamo ancora. Il campo elettromagnetico rimane. Senti, che cosa è necessario fare? Perché tu ci hai detto più volte, bisogna mappare l'edificio. Sì, un'operazione preliminare che ad oggi noi prevediamo, per il futuro vedremo, però in fase iniziale, dovendoci concentrare su altro, lasciamo questo aspetto, è quello che qualcuno si prenda la briga di andare a rilevare qual è il campo magnetico all'interno di un edificio. Se quindi facciamo l'esempio, centro commerciale, uno deve passeggiare per il centro commerciale per qualche minuto, qualche ora. Beh, parliamo di una passeggiata abbastanza ben organizzata, dettagliata. Quindi le nostre stime sono per un medio supermercato, tipo 600 metri quadri, potremmo essere verso l'ora di lavoro. Per mappare tutto. Una lo volta spazio. Che uno ha mappato... Qualsiasi altro utente può entrare in quello spazio e venire localizzato e quindi usare tutti i servizi. Sì, ma voi come vi immaginate che la vostra tecnologia venga utilizzata? Facciamo ad esempio, utilizziamo l'esempio del centro commerciale, perché io possa usare la vostra tecnologia, che cosa deve avvenire e soprattutto come la utilizzo? Allora, deve avvenire che ci sia qualcuno di mezzo tra noi e il cliente finale. Noi intendiamo dare la nostra tecnologia in uso a chi sviluppa le app e quindi che possa essere un servizio aggiuntivo all'interno di un'app sviluppata da altri, i quali ci ovviamente pagheranno questo uso conseguentemente. Quindi lo sviluppatore di app che fa l'app per il centro commerciale inserirà la capacità di indoor localization e navigation per tutti gli utenti. Cosa vuol dire? Che l'utente che magari va a cercare il determinato prodotto o il determinato negozio potrà per comodità utilizzare questa funzionalità e magari nell'utilizzarla ricevere anche coupon, sconti e quant'altro da parte del negozio a cui sta passando davanti, da parte della gestione del centro commerciale. Che precisione ha il vostro sistema? Ecco, questa è la parte bella. Noi riusciamo a scendere sotto il metro di precisione. È un algoritmo molto complesso, però i risultati sono assolutamente eccellenti. Quindi vuol dire che se io mi trovo nella corsia di un supermercato, voi siete in grado con questa tecnologia di dire se io sono appunto davanti al reparto della pasta piuttosto che del risotto. del riso. Piuttosto. Ma che altri usi voi pensate si possano fare con questa tecnologia? Noi pensiamo sia in qualche modo utilizzabile a livello, stiamo parlando sempre a livello di lato user, di lato consumer, quindi di smartphone. Sì, consumatore finale con lo smartphone in mano, certo. Sia utilizzabile in tutti quelli che sono i grandi spazi frequentati da molte persone. Quindi andiamo dal supermercato che abbiamo citato, al centro commerciale che abbiamo citato, ma anche al museo, dove invece di prendere la radiolina all'ingresso con l'audioguida possiamo utilizzare il nostro smartphone e quando ci avviciniamo a un'opera magari e la stiamo guardando e siamo in quella direzione, magari parte l'audioguida o ci viene dato una guida su testo. Quindi anche in questo caso chi produce l'applicazione per il museo metterà in questa applicazione una mappa che, utilizzando la vostra tecnologia, fa sapere all'utente che utilizza questo smartphone dove si trova. Se mi trovo nella stanza con la primavera del Botticelli o invece nella stanza dove c'è un quadro di Leonardo. E quando mi avvicino sufficientemente all'opera di interesse, mi parte l'audioguida magari direttamente. Quindi possiamo pensarlo per aeroporti, fiere? Sì, qualsiasi, ma anche per le serate di dating in discoteca, nel senso che posso arrivare al punto di far incontrare fisicamente due persone. Interessante. Quindi diciamo ovunque ci siano grandi spazi commerciali e molte persone. Esatto, in questo caso una cosa che io dico spesso, voi fate la tecnologia, dopodiché vi affidate alla fantasia di chi fa marketing o si inventa prodotti e servizi. Sì, questa è una tecnologia abilitante cosiddetta, quindi noi sviluppiamo la tecnologia e abilitiamo altri a trovarne un uso. Così come oggi il GPS lo usiamo per molte cose, non solo per guidare, paradossalmente appunto chi ha uno smartphone ormai lo usa anche quando deve andare in un ufficio che non conosce, nonostante probabilmente riuscirebbe a orientarsi anche senza, così anche l'indoor positioning probabilmente avrà degli utilizzi che oggi non siamo nemmeno in grado di immaginare. Sicuramente. C'è una cosa interessante da dire. Tu mi dicevi che per utilizzare questa tecnologia voi prevedete in ogni luogo una fase di mappatura, quindi bisogna costruire la mappa registrando e calcolando il campo elettromagnetico di quell'ambiente. Vabbè, fatto una volta effettivamente non bisogna più farlo, a meno che non ci siano delle modifiche strutturali. Grosse strutturazioni, esatto. O spostamenti di scaffalature. Mi dicevi che però c'è un altro sistema. C'è il cosiddetto sistema SLAM che viene utilizzato oggi da alcuni che appunto lavorano con l'indoor positioning su Wi-Fi, che permette, anziché richiedere a qualcuno di entrare e fare la mappatura iniziale, permette di fare la mappatura a posteriori, quindi collezionando i dati degli utenti che si sono trovati in quel luogo e a posteriori sui grandi numeri andare a ricostruire qual è la mappatura. Un sistema un po' meno preciso, anche su Wi-Fi, comporta di arrivare a precisioni inferiori, che però ha l'indubbio vantaggio di non richiedere quello sforzo iniziale. Oggi non ci stiamo concentrando noi su questo aspetto perché pensiamo prioritario concentrarci sul far funzionare bene l'algoritmo di posizionamento. Però è una evoluzione possibile e pensabile, così come è, guardando un po' più in là, è abbastanza ovvio ai nostri occhi che la soluzione finale per l'indoor positioning sarà una combinazione di queste tecnologie, magari Wi-Fi per arrivare appunto fino a 5-7 metri e poi si scende nel dettaglio con qualcosa simile alla nostra, speriamo con la nostra. Probabilmente l'utilizzo del magnetometro, che nel vostro caso comporta forse un utilizzo della batteria inferiore. Io posso in quel caso tenere spento il Wi-Fi e non lo so, è un'ipotesi. Sì, anche qui guardando un po' più in là dei passi che riusciremo a fare a breve, noi a breve contiamo, l'algoritmo è molto pesante, quindi non c'è capacità di calcolo sufficiente nel telefono ad oggi, dobbiamo mantenerlo sul cloud. Un domani, ottimizzando quello con magari maggiori capacità di calcolo dei telefoni, immaginiamo di portare l'algoritmo nel telefono. A quel punto il consumo di batterie sarà assolutamente modesto. Quindi bisogna essere collegati ad internet per usarlo, diciamo, in questa fase. Ad oggi sì, noi speriamo di arrivare molto presto al passo successivo, magari già nella prima release, ma vedremo se sarà possibile. Questione di mesi, qui forse parliamo già più di qualcosa più di un anno per riuscire a far quello. Più di un anno. Quindi diciamo che in questa fase è ancora un po' lento perché bisogna collegarsi col cloud, diciamo. Sì, rischia di soffrire di delle zone di scarsa copertura appunto della rete 3G piuttosto che Wi-Fi, piuttosto che rischia di soffrire delle latenze della rete. Quindi certo, comunque questo è un problema, diciamo, risolvibile. Che noi immaginiamo transitorio. Senti, mi fai degli altri esempi? Perché noi abbiamo parlato di utilizzi che voi vi immaginate per il consumatore finale, ma c'è tutto un mondo vastissimo e penso potenzialmente anche molto interessante dal punto di vista commerciale, che è quello dell'industria. Esatto. L'indoor positioning, che cosa potrebbe servire nel mondo industriale? In tutta la filiera, diciamo, della logistica ha tutta la filiera ha un forte interesse per localizzare. A questo punto non parliamo più di utenti, parliamo di oggetti tipicamente. Quindi quello è un settore. Sì, noi abbiamo parlato, lo dico agli ascoltatori, di Internet of Things recentemente, ma questa è una cosa di cui torneremo a parlare, insomma, tante altre volte. Quindi tu stai facendo riferimento a questo, cioè all'interno di questo scenario dell'Internet of Things, queste cose che sono collegate alla rete potrebbero, utilizzando questa tecnologia in generale, insomma le tecnologie di indoor positioning, sapere dove si trovano. Esatto, questo è vero nella logistica in senso esteso, ma anche in quella industriale, cioè sapere dove sono gli oggetti all'interno della mia fabbrica. Ma è anche vero, e molti ce lo stanno ripetendo, che un settore di assoluto interesse è per esempio quello della sanità, quindi l'ospedaliero, dove c'è un forte tema di sapere sempre dove è un paziente, cosa che oggi richiede una serie di passaggi e di operazioni che fanno perdere tempo prezioso al personale degli ospedali, così come andare a localizzare dove sono i nostri strumenti, i device all'interno dell'ospedale. Quindi immaginiamo un braccialetto per ogni paziente che contenga uno scatolino in qualche modo ergonomico che abbia accelerometro, giroscopio e magnetometro e magari anche un'antennina Bluetooth per andare a riferire su dove è il mio paziente. Dove si trova. Bene Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi, anche per averci fatto scoprire un argomento di cui volevo parlare da molto tempo, perché mi sembra molto interessante, molto affascinante, ma non avevo trovato il modo per parlarne, e sicuramente la vostra idea, insomma l'idea di Gipstech, che presto diventerà un'azienda, ci è stata utile. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Questa è la versione podcast di 2024. Saluto i nostri ascoltatori che ci ascoltano in questa modalità che ritengo molto utile e interessante. Saluto tutti quelli che corrono, sono tantissimi quelli che, diciamo, ci sono due categorie, le due grandi categorie sono quelli che corrono, comunque fanno sport, ascoltando 2024, oppure quelli che ci ascoltano in automobile o su altri mezzi di trasporto, tipicamente autobus o treni. Saluto anche le persone che ci ascoltano dall'estero, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone, e quindi ci fa piacere che ascoltiate, voi che abitate in paesi dove di tecnologia ce n'è sicuramente di più rispetto al nostro paese, insomma fa piacere sentire o comunque leggere i vostri messaggi. Continuate a scrivere a 2024@radio24.it oppure seguirmi su Twitter @_Pagliarini, è un modo anche per comunicare quello di Twitter, o anche la nostra pagina Facebook. Adesso passiamo all'altro argomento, un altro approfondimento che vi stiamo proponendo in versione originale, quindi con interviste più lunghe rispetto a quelle che sono andate in onda alla radio. E questo è anche il bello del podcast su internet, lo spazio è pressoché illimitato, poi non bisogna esagerare nemmeno lì. Adesso parliamo di self-publishing, anche in questo caso potremmo dire come la tecnologia ci sta cambiando la vita, perché grazie alle piattaforme digitali di distribuzione di ebook, intesi come contenuti, come libri, oggi è possibile scrivere un libro e, se si è bravi, farsi conoscere. Insomma, non è così semplice, però sicuramente la tecnologia ci facilita di molto la vita. Saluto Antonio Tombolini, che è il fondatore e l'amministratore delegato di Simplicissimus Book Farm, che si occupa proprio di distribuzione di libri digitali e che ha organizzato nel weekend del 19 e 20 ottobre il primo festival italiano dedicato al self-publishing. Bentornato a 2024. Buonasera, bentrovato Enrico, bentrovati tutti gli ascoltatori. Definiamo subito, Antonio, che cos'è il self-publishing. Eh sì, è bene forse tradurlo subito come si deve. Si tende a tradurlo un po' troppo, secondo me, con autori indipendenti. In realtà la traduzione giusta è autopubblicazione, self-publishing, cioè la possibilità che esiste oggi, grazie alla transizione al digitale, di non solo prodursi un proprio ebook, ma anche di distribuirlo. E questa è la novità rispetto al self-publishing cartaceo. Col libro di carta si può sì produrre il proprio libro, ma diventa estremamente difficile, costoso e complicato distribuirlo fisicamente. Con l'ebook improvvisamente si apre la possibilità per autori indipendenti di raggiungere le stesse librerie online, gli stessi scaffali dei titoli dell'editoria tradizionale. Prima di parlare della distribuzione dei libri, e questo è un aspetto interessante, parliamo della produzione, perché una volta realizzato, scritto, insomma, avuta l'idea, scritta l'idea, quindi realizzato il libro, che può essere un romanzo, qualsiasi altra cosa, uno lo deve trasformare nel formato che si usa nell'editoria, negli ebook. Allora, spieghiamo questo passaggio. Eh sì, una volta che si è creato il testo, e naturalmente, come stavi dicendo, si può usare una molteplicità di programmi più o meno specializzati per la scrittura di libri, da Word a LibreOffice, invece a quelli ancora più sofisticati, ma il punto è che se poi si vuole effettivamente entrare sul mercato dell'editoria, bisogna fare i conti con quello che è ormai il formato di riferimento per il mercato degli ebook, che è il famoso formato EPUB. Per fare in modo che il proprio libro diventi un buon file EPUB e quindi sia poi leggibile su tutte le piattaforme di vendita e di lettura degli ebook, occorre utilizzare degli strumenti specifici. Ormai per fortuna esistono strumenti anche molto semplici e soprattutto gratuiti, che sono in grado di importare il nostro libro scritto con l'editor di nostra preferenza e di esportare poi il libro nel formato EPUB corretto. Diamo alcune indicazioni di software, piattaforme, i nomi li abbiamo anche messi sul nostro sito internet nelle pagine di 2024 su radio24.it. Esattamente, ma guarda, io suggerirei, al di là di alcuni strumenti specifici per addetti ai lavori molto sofisticati e non gratuiti, che però richiedono capacità di programmazione, ne indicherei un paio. Il primo che citerò è inglese, il secondo è italiano, l'abbiamo fatto noi, sono entrambi gratuiti. Il primo è 7write.com, scritto 7 e poi write come scrivere, .com. Il secondo è backtypo.com, scritto back B-A-C-K e typo T-Y-P-O. Sono entrambi, lo ripeto, gratuiti, l'interfaccia è in entrambi i casi molto molto semplice, si può fare una prova con un file anche piccolo di test, vedere come ci si trova e scegliere quello che si preferisce. A questo punto dobbiamo distribuirlo il nostro libro, cosa dobbiamo fare? Ma direi che sostanzialmente ci sono due strade. La prima strada è quella di autonomamente, ciascuno per sé per il proprio libro, andare a contrattualizzare la propria posizione con le singole librerie online dove lo consentono. In questo caso l'autore potrebbe pensare di caricare il proprio libro su, ad esempio, la piattaforma di self-publishing di Amazon che si chiama Kindle Direct Publishing, KDP, o sulla piattaforma di self-publishing di Kobo, che si chiama Kobo Writing Publishing. Oppure esiste un'altra via, che è la via delle piattaforme multicanale, che consentono all'autore, con un'unica operazione, in un unico sito, di avere il proprio libro in vendita non solo su Amazon e su Kobo, ma anche su tutte le altre librerie online, e quindi anche su Google, su Apple, ma anche sulle librerie nazionali per venire in Italia, le varie IBS, Feltrinelli, Mondadori e così via. Che è il lavoro che fate voi? È il lavoro che facciamo noi con la piattaforma dedicata ai self-publishers che si chiama Narcissus.me. Che abbiamo iniziato a fare in Italia e che adesso stiamo espandendo su scala internazionale. Voglio citare anche un'altra piattaforma perché credo che sia giusto farlo, un po' una piattaforma in questo momento di riferimento per il mondo del self-publishing americana, si chiama Smashwords.com. Smashwords.com è una piattaforma multicanale come Narcissus, opera quasi esclusivamente sul mercato americano. La cosa interessante è che, come spesso capita in questo settore, essere attenti a quello che succede da quelle parti è sempre una buona cosa per capire che indirizzo prenderanno le cose poi da noi, non solo in Italia ma anche in Europa. Allora, volevo capire, stiamo parlando di un fenomeno che è solo agli inizi e quindi è giusto osservarne le dinamiche, vedere cosa succede in giro per il mondo, o stiamo parlando già di un fenomeno rilevante? Sì, qui succede una cosa curiosa e molto interessante, e cioè siamo abituati a guardare ad altri settori, specialmente la musica, come un settore comunque all'avanguardia rispetto nel digitale rispetto a quello che succede nell'industria editoriale, e questo è vero per molti aspetti. Nel self-publishing però non è così. Non è così perché in realtà le migliori, maggiori e più affermate esperienze di distribuzione del self-publishing sono quelle che stanno avvenendo proprio nell'editoria, e in questo caso è un po' la musica che sta guardando invece all'editoria. Tutta l'area delle produzioni musicali autonome, indipendenti o comunque non mainstream, non controllate sostanzialmente dalle sei major o cinque che sono ormai rimaste discografiche, che stanno guardando alle esperienze del self-publishing editoriale per capire come attrezzarsi per poter distribuire la musica che viene autoprodotta, che oggi esiste ma il cui esito spesso si esaurisce soltanto nelle performance live, nei concerti, e non ha ancora risolto il problema di una distribuzione commerciale invece della musica in download. Su questo l'editoria è un po' meno di nicchia, nel senso che do dei numeri di riferimento che ciascuno può valutare. Negli Stati Uniti i titoli in distribuzione da self-publishing hanno ormai superato, con il primo semestre del 2013, il numero di titoli commercialmente immessi sullo stesso circuito distributivo dagli editori tradizionali. Il self-publishing ha immesso sul mercato nell'ultimo anno 395.000 titoli, mentre gli editori ne hanno immessi qualcosa di più di 300.000. Se vogliamo riportarci ad un mercato più piccolo e ad una fase più embrionale come quello italiano, i numeri però non sono meno significativi. Cito quelli che conosco più direttamente: la nostra piattaforma ha immesso sul mercato nel corso dell'ultimo anno quasi 2.500 titoli, sui 2.400 titoli e qualcosa. Tenete conto che in Italia il maggior gruppo editoriale, che è Gruppo Mondadori, immette sul mercato in un anno qualcosa attorno ai 2.500-3.000 titoli. Al ritmo di crescita che stiamo avendo, già entro la fine del 2013 la nostra piattaforma da sola avrà immesso sul mercato più titoli del più grande gruppo editoriale italiano. Questo naturalmente significa che l'impatto sul mercato in generale è un impatto destinato ad essere sempre più importante. Parliamo anche di soldi. Qual è il modello di business sul quale si fonda tutto questo sistema, questo fenomeno del self-publishing? Il modello è quello che si è ormai affermato anche per l'industria editoriale, ed è proprio quello a cui sta guardando la musica, che finora non è arrivata a questo, anche per delle limitazioni tecnologiche. Non esistono piattaforme di distribuzione simili a quelle che già operano nell'editoria, o perlomeno non esistono di così sofisticate dal punto di vista della distribuzione multicanale. Ma in sostanza l'autore carica il libro nella piattaforma di distribuzione e definisce il prezzo lui stesso, e una volta fatto 100 il prezzo di vendita finale, la ripartizione ormai standard in questa industria è tale per cui il 30 viene trattenuto dalla libreria che venderà quel libro, il 10 viene trattenuto dalla piattaforma di self-publishing e il rimanente 60% va in tasca all'autore. Allora, naturalmente noi non parliamo in questo ambito, visto che questo è un programma di tecnologia, della qualità che si trova nel mondo del self-publishing, perché naturalmente, non essendoci un editore che valuta se un libro è bello, e poi già su quello possiamo discutere molto, sulla capacità degli editori di valutare se un libro è bello o brutto, sicuramente essendosi abbattute queste barriere all'ingresso, tutti possono scrivere, tutti possono pubblicare, e ci sono un sacco di persone che non scrivono cose di grande interesse ma che riescono grazie alla tecnologia a pubblicare. Quindi lasciamo da parte questo tema, che è sicuramente un tema, molti soprattutto nel mondo dell'editoria classica storcono un po' il naso, ma naturalmente in tutti i mondi ufficiali si storce il naso quando ci si rivolge e ci si deve confrontare con mondi nuovi che arrivano, però a parte questo dibattito che è sicuramente molto interessante e lo lasciamo agli addetti ai lavori, ai dibattiti, e sicuramente se ne è parlato questo primo festival del self-publishing, volevo chiedere come ultima domanda come ci si fa conoscere, perché questo è un elemento importante. Nel mondo classico l'editore, la casa editrice, anche grazie al network di librerie, ci aiuta, se uno è bravo a scrivere, se uno ottiene udienza presso una casa editrice, insomma ci aiuta per farci conoscere. In questo mondo cosa succede? Ecco, questa è una domanda che mi piace lasciare per ora col punto interrogativo. Se vuoi è un po' anche la questione che è al centro del dibattito sul self-publishing e anche del nostro stesso evento. Perché? Perché un primo passo è stato compiuto, si sta compiendo. Il primo passo è l'abbattimento delle barriere all'ingresso e la creazione della possibilità di competere come self-publisher sullo stesso mercato dell'editoria tradizionale. Ma quanti più titoli saranno immessi sul mercato a un ritmo crescente come quello del self-publishing, tanto più pressante diventerà il problema di come far emergere il proprio titolo. L'aspetto, secondo me, interessante è che questo movimento del self-publishing, che si misurerà sempre di più con i temi della promozione del marketing librario in rete, provocherà, a mio avviso, una vera e propria rivoluzione degli strumenti di promozione libraria, che sono sostanzialmente ancora fermi a quelli, se posso dire, un po' vecchi della editoria tradizionale. È molto difficile vedere cose da parte degli editori che vadano al di là e al di fuori delle classiche presentazioni del libro fatte in libreria con un gruppetto di persone più o meno interessate all'argomento e magari, per chi si spinge un po' di più in rete, qualche tweet o qualche pagina Facebook qua e là. Qui si tratta veramente di inventare strumenti professionali per la promozione e marketing del libro in rete. Non a caso a Senigallia ci saranno anche professionisti della promozione del marketing web, che naturalmente qui non guardiamo più né alla musica né al cinema, ma guardiamo ad altri settori in cui l'e-commerce è molto più spinto, e quindi ci saranno anche professionisti del marketing online che cominceranno a misurarsi con questa esigenza fondamentale per gli autori che si autopubblicano. Bene, grazie ad Antonio Tombolini per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti, a presto. Adesso c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco, sarà con noi Gianfranco Giardina per parlare del mercato dei televisori che sta cambiando fortemente partendo da alcune notizie della settimana. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Saluto Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale di Day.it, bentornato a 2024. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora Gianfranco, questa settimana abbiamo pensato e deciso di parlare di TV, del mercato, della produzione soprattutto di TV, partendo da una delle ultime notizie. Ci sono parecchie notizie che riguardano questo mercato negli ultimi giorni. Molti ascoltatori avranno sentito che la Mivar, uno dei grandi produttori italiani degli anni 80-90, ha annunciato che dalla fine di novembre smetterà di produrre televisori in Italia. Prima o poi questa è una decisione che poi sarebbe dovuta prendere. È ormai l'ultimo produttore italiano e nei tempi non ci dobbiamo sorprendere. Insomma. No, beh, nei tempi d'oro il tubo catodico ce n'erano tanti produttori italiani, è rimasto l'ultimo, anzi durato, se vogliamo, fin troppo in un mondo che ormai è globalizzato. La Mivar praticamente vendeva soltanto sul mercato interno, sul mercato italiano. Di certo, e negli ultimi anni vendeva in perdita. Negli ultimi anni vendeva in perdita, almeno secondo le dichiarazioni di Vicky, il proprietario, sì, dell'azienda, vendeva in perdita, ma era un modo, diceva Vicky, per restituire alla collettività una parte dei grandi guadagni fatti negli anni d'oro. Questo il personaggio, si sa, è un po' estroso, Carlo Vicchi è un po' particolare, e però ha deciso a 90 anni, all'età di 90 anni, come unico pilota dell'azienda, diciamo, di interrompere la produzione di TV, ma non interrompere la produzione, attenzione, perché ha detto che si dedicherà alla produzione di mobili per ufficio di sua concezione. Adesso vedremo che cosa succederà. Senti, è impossibile produrre un oggetto come il televisore, che oramai ha margini risicatissimi e quindi richiede economie di scala gigantesche e anche costi alla produzione molto bassi. È impossibile produrre non solo in Italia ma in tutta Europa, perché anche la Loew, che è uno dei marchi più noti europei, ha detto che ha già iniziato a produrre una parte dei prodotti con un partner orientale. Sì, sì, è impossibile, possiamo dirlo, è impossibile, ma basta vedere un dato chiaro e semplice: gli ultimi tubi catodici, quindi i TV oramai giunti a una tecnologia maturissima, totalmente ammortizzata dal punto di vista economico, 32 pollici top di gamma costavano intorno ai 5 milioni di lire. Un 32 pollici oggi costa intorno ai 250 euro, quindi è evidente che le lire di 12-13 anni fa chiaramente poi andrebbero anche rivalutate, quindi è evidente che si sono create delle economie di scala talmente tirate per cui la scala conta. Non può esistere più un produttore che non produca se non per tutto il territorio internazionale, per tutto il globo, e quindi è un vero effetto di globalizzazione. Qui i produttori locali non possono più esistere, questo è un dato di fatto, e semplicemente perché nessuno comprerebbe un TV a un prezzo doppio solo perché è made in Italy. Sì, i problemi ce li hanno, ma questa è una notizia che abbiamo commentato, una serie di notizie che abbiamo commentato da tempo. Anche i giapponesi, che sono sempre stati i più grandi produttori, anche soprattutto dal punto di vista tecnologico, sono sempre stati all'apice della tecnologia. Poi sono arrivati i coreani, adesso stanno arrivando i cinesi. I giapponesi ce la faranno a sopravvivere? Perché poi commentiamo anche le notizie di queste ultime settimane. Presumibilmente ce la faranno se sapranno cambiare un po' mestiere, quindi continuare a stare sulla frontiera tecnologica, perché è quello che sono condannati a fare, con sicuramente una struttura e un costo del lavoro più alto, anche se diciamo la politica economica del Giappone di questi ultimi mesi è proprio finalizzata anche a favorire, se vogliamo, le esportazioni, a svalutare lo yen. Quindi diciamo che ce la faranno, però solo se sapranno stare sulla frontiera tecnologica, e in questo momento sembra che vogliano farlo, ecco, sviluppando prodotti innovativi. Diciamo. A proposito di frontiera tecnologica, allora partiamo dalla notizia meno recente, diciamo così: Panasonic, con mio grande dolore, ha annunciato che non farà più, allora non l'ha annunciato ufficialmente, ma pare che sia vero, non farà più plasma. O meglio, la prossima serie potrebbe essere l'ultima, o forse quella corrente è l'ultima, si vedrà, ma comunque ha spostato il team di sviluppo, cioè non svilupperà prodotti innovativi, dicendo che il plasma attuale ha raggiunto ormai la totale maturazione di quel tipo di tecnologia, effettivamente sono formidabili per qualità d'immagine, e quindi non merita più ulteriori sviluppi, spostando il team di sviluppo su nuove tecnologie, appunto, è quello che dicevamo, prima, non ha più senso per un giapponese, ma probabilmente neanche per un coreano, concentrarsi più tanto in termini di ricerca e sviluppo su prodotti maturi, come sicuramente il plasma è e come oramai anche l'LCD è diventato. Sì, e quindi la nuova tecnologia quale sarà? OLED. OLED, che arriva? Perché questa è una domanda che ci fanno ricorrentemente. Allora, un comunicato stampa di ieri, se non ricordo male, o dell'altro ieri, comunque di questa settimana, dice che gli OLED curvi di LG, 55 pollici, sono già in vendita in Italia presso gli e-tailer, quindi già online possono essere ordinati. Ed è vero, ok, e quindi è un prodotto ordinabile da 9.000 euro, e io dubito che qualcuno compri un TV da 9.000 euro senza averlo mai visto, sì, però tutto è possibile. Comunque, certo, l'OLED, al di là del fatto che sia presente nei negozi o acquistabile effettivamente adesso, fra una settimana, lo sarà sicuramente prima di Natale, adesso mi sbilancio, ma sicuramente sarà prima di Natale, è senza dubbio la tecnologia che andrà a soppiantare quando arriverà a prezzi più bassi, man mano tutte le applicazioni. Sì, quindi diciamo così, mentre oggi è oramai indubbio che la miglior qualità ce l'hanno i migliori plasma, arriveranno gli OLED a sostituire proprio in termini di qualità di visione il plasma? Gli OLED prototipo che abbiamo già visto in fiera in questi mesi sono già migliori del miglior plasma. Ok. E normalmente i prototipi di schermo piatto in passato ci avevano abituato a qualità non proprio eccelse, cioè i primi plasma, i primi LCD erano in termini di qualità d'immagine non certo il meglio di quello che la tecnologia poi ha offerto. Se l'OLED sarà ulteriormente perfezionabile in futuro, sì, credo proprio che nel giro di qualche anno tutti i TV diventeranno in questa tecnologia. Ok, poi naturalmente ricordo ai nostri ascoltatori che di questo abbiamo parlato moltissimo, quindi proprio sulla tecnologia abbiamo parlato in altre puntate, quindi potete andare nel nostro archivio per riascoltare quelle puntate che sono ancora molto attuali, perché dal punto di vista tecnologico non è che sono cambiate le cose negli ultimi 2-3 anni a proposito di OLED, e sicuramente ne riparleremo. A proposito di notizie, Sharp ha preso una decisione abbastanza importante. Sharp ha preso la sua fabbrica più importante, che è Kameyama, è un impianto che tra l'altro ho visitato, bellissimo, gigantesco, avveniristico, che era specializzato in fare pannelli di grandissima dimensione, ed ecco qui che infatti Sharp negli ultimi anni ha offerto proprio TV enormi. Cioè 60 pollici? No, molto di più. Di più? 80-90 pollici. Ah. 70-80-90, questa è la gamma, la proposta più importante di Sharp di questi ultimi 2 anni, e la sta riconvertendo gradualmente ai display in tecnologia IGZO. Non stiamo a spiegare adesso cos'è questa tecnologia, comunque una variante, se vogliamo, dell'LCD, ma ottimizzata per una migliore qualità d'immagine, che sono display piccoli, cioè in realtà destinati ai device mobili. E va giustamente dove il mercato crea domanda. In questo momento sta creando più domanda sui device portatili, quindi smartphone e tablet. Lì c'è bisogno di una qualità migliore, che ancora forse non è stata raggiunta in tutti i casi. Ecco che Sharp si impegna su questo fronte, e sicuramente su quel fronte avrà grande successo, perché con quella tecnologia sanno produrre in questo momento quasi soltanto loro. Sì, quindi IGZO è solo Sharp? Sì. Solo Sharp. Beh, naturalmente quello è un settore dove i margini sono più ampi. Nei TV ormai i margini non ci sono quasi. Nei sono TV, molto bassi. Stante la concorrenza spietata tra i diversi brand, le economie di scala ormai raggiunte e ottimizzate, più di così è difficile. È diventato per molti un business in perdita, se non in perdita, in pareggio, con margini assolutamente risicati. Toshiba ha detto arrivederci a tutti? Toshiba ha detto che i TV non fanno più parte del proprio business, perché troppo impegnativi appunto sul fronte economico. Sì. In questo momento. Senti, come peraltro dobbiamo dirlo, ha già fatto per certi versi Philips, certo, che ha ceduto il proprio marchio TV a un grande gruppo industriale, ma di origine cinese, e sta andando avanti con la produzione di TV Philips, ma non sono più prodotti direttamente da Philips, anche se col medesimo team di sviluppo. E così abbiamo visto, abbiamo accennato anche a Loewe, che si sta in qualche modo consorziando con un'altra società cinese. A questo punto il mercato è a livello di produzione, quindi a livello poi anche di sviluppo tecnologico, oltre che il Giappone, ma sulla frontiera tecnologica, in Corea e Cina. C'è chi dice, mi sembra di averlo sentito anche da te, che nel giro di pochissimi anni succederà tra la Corea e la Cina quello che è successo tra la Corea e il Giappone. Tutto lascia pensare così. I giapponesi hanno incominciato a produrre in Corea del Sud molti anni fa per avere costi più bassi, perché il costo del lavoro in Giappone era molto alto. Adesso i coreani vanno in Cina. I coreani hanno imparato, però. Samsung era un grandissimo terzista, lavorava per tutti i marchi più importanti. Adesso in Cina abbiamo delle realtà incredibili. Abbiamo Foxconn, che non dimentichiamoci, tra le altre mille cose, perché non è che faccia solo i prodotti Apple, ma fa anche praticamente iPhone e iPad, e quindi uno dei prodotti più stimati anche per qualità, per materiali e per lavorazione che ci sia sul mercato, e poi produce per molti altri. Sul fronte TV ci sono dei marchi che forse qualcuno magari non conoscerà, ma che io consiglio di incominciare a puntarsi sul taccuino, che sono Haier e Hisense, che sono due marchi cinesi che in realtà stanno dimostrando di avere una capacità industriale, proprio produttiva, incredibile, e stanno anche migliorando velocissimamente la capacità progettuale. E quindi da questo punto di vista è chiaro che se, per esempio, visto che facciamo il caso di cui stavamo parlando prima, Loewe, che è un sicuramente un paradigma industriale importante per il mondo della TV e dei materiali utilizzati, eccetera eccetera, delocalizza parte della sua produzione negli stabilimenti di Hisense, perché questo è l'ipotesi, di certo quelli di Hisense impareranno non solo le cose che già sanno fare, ma impareranno anche qualche trucco del mestiere di Loewe. Così facendo avranno anche ancora migliori conoscenze industriali, e poi pian piano impareranno anche a fare il marketing, come la storia della Corea del Sud ha insegnato, surclassando anche i loro maestri da questo punto di vista. E quindi tutto lascia pensare. Se, come io dico spesso, l'elettronica di consumo, anche se ha una vita di qualche decina d'anni, diciamo 50 anni, 60 anni, non di più, ma è un business talmente veloce che i corsi e i ricorsi oramai sono già tracciati, si possono leggere. Se si legge la storia si riesce a prevedere meglio il futuro. La storia ci dice questo, poi magari qualcuno mi rinfaccerà queste parole con un podcast tra 5 anni, tra 8 anni, dicendomi che i cinesi non sono andati da nessuna parte. Io credo che molti sempre di più avranno nel futuro dei buoni TV cinesi in casa, mentre giapponesi e coreani cercheranno sempre più i giapponesi e i coreani, di concentrarsi sulle nuove tecnologie. Ci porteranno l'OLED Ultra HD 4K e così via. Bene, io per adesso compro i giapponesi, che sono all'apice della frontiera tecnologica, grazie a Gianfranco ma non sono solo io, giusto? No, sono in tanti. Grazie Gianfranco Giardini. Sono però di più quelli che compra in coreano. Vabbè, bisogna sempre decidere dove stare. Io scelgo di andare in autostrada la sera, che c'è poca gente, quindi. Grazie Gianfranco Giardini per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie mille. E noi riprendiamo tra un minuto. 2024. Vi ricordo che esiste una versione podcast, e in modo particolare questa settimana nella versione podcast, quindi nel file MP3 che potete scaricare dal nostro sito internet, trovate molti più contenuti, quindi le nostre interviste in versione integrale. Una versione che potremmo definire premium per chi ci ascolta in podcast. Adesso vi faccio sentire un breve estratto, un'anticipazione potremmo dire, di un'intervista che ascolteremo in versione integrale la prossima settimana, oggi non ne abbiamo il tempo, con una chiacchierata con Enrico Gasperini, che è il presidente di AudiWeb. AudiWeb è la società che rileva in Italia la audience di internet, quante persone si collegano e soprattutto che cosa fanno, chi sono queste persone che si collegano ad internet. In settimana AudiWeb ha pubblicato i primi dati di una ricerca che diventerà stabile nel 2014, che estende la rilevazione anche al mondo mobile, quindi oltre al mondo PC classico vengono rilevati anche i dati di navigazione da mobile. Sentiamo quante sono le persone in generale che si collegano a internet in Italia. Noi abbiamo circa 25-26 milioni di utenti che si collegano via PC ogni mese, ed è un dato flat o addirittura in ribasso, nel senso che comunque sta diminuendo il numero di utenti che utilizza la rete da PC. Viceversa abbiamo un'altra realtà, che è quella mobile, fatta da smartphone e tablet, che sta aumentando in maniera enorme. Si pensi che l'accesso da tablet è aumentato del 160% in un anno, quindi stiamo parlando di più di 30% su base trimestrale, e quindi abbiamo un universo che si sta completamente ridefinendo rispetto a poco tempo fa. Oggi noi calcoliamo, abbiamo fatto i primi dati assolutamente ancora non stabili, quindi sono dati beta, come si dice, abbiamo deciso di divulgarvi proprio per cominciare la ricerca, che sarà poi operativa con i dati a regime da gennaio, e vediamo già che ci sono più di 9 milioni di utenti mese su mese in agosto su smartphone che si collegano a internet via browser o usano applicazioni collegandosi a internet attraverso di quelle, e 4 milioni circa da tablet. Sono numeri importanti, perché se si guardano anche i tempi di utilizzo si scopre che il budget complessivo, no, di utilizzo da parte di questi utenti è molto simile o ha superato addirittura i 25-26 milioni che si collegano al PC. Questo significa che oggi il time budget, quindi il consumo effettivo di questi due nuovi mezzi, è paragonabile a quello di PC o l'ha superato. La prossima settimana sentiremo l'intervista integrale ad Enrico Gasperini, parleremo di rilevazione di dati di audience su internet. Adesso invece ci colleghiamo con Luca De Biase, che è responsabile di Nova, l'inserto di innovazione del Sole 24 Ore, che troverete domani in edicola assieme al Sole 24 Ore. Luca, bentornato a 2024. Ciao a tutti. A che cosa avete dedicato la copertina che troveremo domani? Ma c'è la storia davvero affascinante di 1500 imprese della Sardegna che hanno adottato una moneta tutta loro che si chiama Sardex. Ce ne parla Carlo Mancosu, che è quello che l'ha inventata, o perlomeno ha portato in Sardegna l'idea di una moneta complementare. Cos'è? Tu dirai. Esatto, che cos'è? È una meraviglia, perché fondamentalmente questa storia l'ho intercettata dopo 15 anni che avevo intervistato Bill Gates. Gli avevo chiesto: ma nella società dell'informazione conta di più l'informazione o il denaro? Sapendo che lui aveva molto più denaro che informazioni. Lui ha detto: beh, il denaro è una forma di informazione. E da allora ci ho pensato per un sacco di tempo e ho trovato la risposta adesso. Allora, a questo punto vogliamo sapere che cos'è questo Sardex. Il Sardex è un modo con il quale persone che si scambiano beni si informano sul loro valore. In pratica tu sei un'azienda che ha una capacità produttiva non utilizzata, vai a Sardex e ti fai fare un credito in Sardex, con i quali Sardex, che valgono un Sardex vale un euro, vai a comprare delle cose che servono per la tua produzione. Non so, sei un ristorante, vai a comprare del vino, la cantina accetta i Sardex. Quando tu vendi quel vino nel tuo ristorante, a tua volta accetti dei Sardex per l'avventore che viene nel tuo ristorante. In questo modo tutto quello che viene sviluppato in questa economia parallela è una specie di baratto nel quale non c'è uno scambio diretto tra un bene e l'altro, ma c'è uno scambio tra beni che vengono valutati con il loro prezzo normale di mercato. In questo modo il Sardex è una moneta fondamentalmente basata sul credito. Tu vai al Sardex, ti fanno credito e il Sardex che tu ottieni non vale niente se non lo spendi, per cui non lo tieni da parte, lo spendi per comprare qualche cosa da mettere in circolazione nell'economia. La cosa è grossa, nel senso che per esempio in Svizzera, dove questa pratica è molto diffusa, il VIR, che è la moneta complementare locale, vale circa il 2% del PIL complessivo della Svizzera. In Sardegna ci sono 1500 aziende che hanno aggiunto alla loro economia normale in euro un'ulteriore parte di economia che serve a vendere merci, a comprare merci in modo complementare rispetto all'economia tradizionale usando i Sardex. Da non confondere con i Bitcoin, che è un'altra moneta virtuale di cui si parla molto negli ultimi tempi. Ma sai, il Bitcoin ha la differenza che può essere convertito in monete normali, per cui le banche centrali sono molto preoccupate da questo fenomeno. Bitcoin è totalmente peer-to-peer, non c'è una banca centrale, non c'è un luogo nel quale prendi i Bitcoin che ne stabilisce, diciamo, li governa. È governato da un algoritmo e funziona su tutti i computer di quelli che lo accettano. Però c'è un vero e proprio sistema di cambi per cui di fatto si pone in una condizione che preoccupa le banche centrali. Per il Sardex questo non è vero, nel Sardex non puoi passare dal Sardex all'euro e questo significa che per esempio la Banca d'Italia, che è andata a guardare dentro il computer del Sardex, ha detto che è assolutamente legale e funziona in modo coerente con il sistema monetario tradizionale. Bene, grazie Luca per essere stato con noi, buon lavoro e buon weekend. Arrivederci. Concludiamo ricordandovi un appuntamento di questa settimana, perché mercoledì, giovedì e venerdì torna a Milano SMAO, che è un appuntamento itinerante oramai, ma sicuramente quello di Milano è il la tappa di Milano è la tappa più importante. Saluto Pier Antonio Macola, che è l'amministratore delegato di SMAO. Bentornato a 2024. Grazie. Partiamo proprio dal concetto di SMAO, che è diventato da qualche tempo un appuntamento itinerante. Sì, è vero, e questa è una scelta che ormai abbiamo fatto 5 anni fa, perché l'idea è proprio andare a casa dell'impresa e il nostro pubblico sono proprio gli imprenditori italiani, un po' di tutte le industrie e un po' in particolare gli imprenditori attivi nell'ambito digital. Allora, partiamo dalle diciamo informazioni di base. Perché venire a SMAO? Che cosa si trova a SMAO? Ma diciamo ormai noi abbiamo abituato i nostri visitatori a un'offerta che è in primis di contenuti, quindi abbiamo qualcosa come 400 workshop della durata massima di 50 minuti in cui le imprese riescono a orientarsi rispetto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali. Il ragionamento alla base è che il digitale ormai a livello personale lo conosciamo tutti molto bene, quasi senza neanche accorgerci, è una rivoluzione che è entrata nelle nostre case, nelle nostre abitudini. In realtà invece in azienda, nel business, c'è ancora moltissimo da fare, perché l'opportunità di usare queste tecnologie nel lavoro, ecco, richiede anche un percorso culturale che consenta di comprendere bene i benefici di business. Quindi potremmo dire fate alfabetizzazione digitale. Esattamente così, però riservata solo a imprenditori e manager, perché ecco, sappiamo che nell'ambito del lavoro ecco, ci sono metodologie, esperienze e anche abitudini che sono in qualche modo molto diverse da quelle della vita di tutti noi, quindi dal modo di collaborare, di comunicare, fino a soluzioni che oggi sono disponibili grazie al cloud, mentre invece negli anni passati richiedevano un ufficio o un reparto dedicato nell'impresa. Oggi non è più così e quindi è importantissimo imparare dagli esempi concreti, e come abbiamo tantissimi premi e riconoscimenti per facilitare proprio la trasmissione delle esperienze e la contaminazione delle pratiche migliori. A proposito di trend e quindi di fatto magari non di novità proprio degli ultimi mesi, ma che cosa ritenete voi di SMAO più interessante se guardiamo appunto ai trend tecnologici degli ultimi tempi? Ma diciamo che se parliamo delle aziende manifatturiere, servizi, quindi le imprese in generale, la vera rivoluzione è sul mobile, sul mobile, quindi di fatto oggi noi accediamo alle informazioni in maniera molto diversa, quasi direi costante, e soprattutto accedono figure che una volta lo usavano in maniera minore, quindi i manager, diciamo, delle diverse linee di business oggi hanno a disposizione una quantità di informazioni per affinare le proprie scelte di cui una volta non disponevano, e soprattutto vi possono accedere in maniera continuativa, ecco, quindi questo è sostanzialmente diciamo la rivoluzione passa proprio da l'accesso alle informazioni sempre, dalla quantità di informazioni, e poi alla base di tutto c'è il cloud, ovvero la possibilità in realtà di diciamo implementare nelle nostre attività soluzioni anche molto sofisticate senza sostenerne gli investimenti in infrastruttura, che è diciamo una rivoluzione che abbiamo visto ormai iniziata qualche anno fa. I workshop sono a pagamento o sono gratuiti? Allora, l'offerta è totalmente gratuita e è sufficiente registrarsi sul sito di SMAO. La cosa importante è in realtà costruire il proprio percorso, diciamo, di partecipazione, quindi rispetto a un tempo in cui esistevano solo i grandi convegni, noi abbiamo visto che per imprenditori e manager la cosa importante è avere la relazione, l'informazione che serve in modalità molto rapida, e quindi per ottimizzare il proprio tempo ogni visitatore costruisce un'agenda personalizzata, e devo dire che su 50.000 presenze che abbiamo a Milano non c'è un'agenda uguale all'altra, perché ovviamente le esigenze sono sempre molto diverse, e l'aspetto importante in Italia è proprio quello di calare questa opportunità sulle nostre piccole e medie imprese, che ovviamente è un po' come l'agenda di Visita Smau, non ce n'è una uguale all'altra, quindi l'idea è quella proprio attraverso il sito di costruire questo percorso personalizzato, in maniera che abbiamo la garanzia che all'uscita dalla visita uno ha avuto le informazioni, tra virgolette, le istruzioni per l'uso, ma anche incontrato i partner corretti per implementare l'innovazione in azienda. Bene, grazie e naturalmente buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Beh, sicuramente in un paese dove molte aziende, purtroppo troppe aziende, faticano a comprendere i cambiamenti tecnologici, beh, un appuntamento del genere può essere utile per capire che cosa sta succedendo. Certo, tutti quelli che magari ascoltano sempre con molta assiduità 2024, molti di voi sono alfabetizzati tecnologicamente, ma magari molti di voi invece hanno dubbi, sono imprenditori, e sicuramente questa è una buona occasione. A proposito di ritardo nella digitalizzazione, domani mattina Confindustria Digitale terrà un convegno importante, ci sarà anche Neelie Kroes, ci sarà anche il Presidente del Consiglio Letta, e in quell'occasione verrà lanciata una proposta proprio per accelerare gli investimenti nei confronti della tecnologia digitale. Ne abbiamo parlato con Stefano Parisi, che è il presidente di Confindustria Digitale. Ma giovedì prossimo c'è a Bruxelles il Consiglio Europeo sull'agenda digitale, sarà un Consiglio Europeo monotematico, si discuterà solo dell'agenda digitale. E quindi noi proponiamo, verranno da noi sia il presidente Letta che la commissaria Kroes lunedì a Roma, e gli proponiamo di assumere il tema dell'agenda digitale come un impegno vincolante per gli Stati membri, così come lo è stato il Fiscal Compact per il risanamento dei conti pubblici e per il sostegno dell'euro. Pensiamo che l'unico modo per superare le resistenze che lo sviluppo dell'economia digitale trovano all'interno dei paesi, nelle amministrazioni pubbliche, nelle imprese, nelle banche, eccetera, sia quello di darci degli impegni vincolanti che obblighino gli Stati membri e tutti i paesi, tutti i cittadini europei ad andare in quella direzione, essendo quello dello sviluppo dell'economia digitale l'unica vera leva per lo sviluppo, per l'occupazione, per mettere in efficienza il sistema economico che non richieda ingenti risorse pubbliche. Le posso fare una domanda per, diciamo, far capire alle imprese qual è il valore dell'investimento in tecnologie e nel mondo digitale in generale, e quale vantaggio può dare a tutto il sistema economico e industriale? Ma guardi, da analisi fatte da varie fonti e da vari centri di ricerca dimostrano che le aziende che hanno abbracciato in pieno il web nello sviluppo delle loro attività, nei processi interni, nella apertura a nuovi mercati, eccetera, hanno aumentato in modo consistente la produttività delle loro forza lavoro, hanno aumentato la loro capacità di penetrazione in mercati stranieri e hanno ovviamente anche messo un più davanti alla voce dei ricavi. Quindi sono tutti dati positivi che la tecnologia del web e di internet portano anche nell'industria più matura, anche sul tessile, anche sull'abbigliamento. E questo sono dati ormai consolidati. Purtroppo sono poche ancora le imprese, in Italia sono pochissime, non poche, pochissime le imprese che hanno fatto questa scelta e che sono entrate in questo mondo, avendo però dei risultati straordinari. Le imprese che non l'hanno fatto sono ancora lì chiuse nel loro mercato e hanno fatica a migliorare la produttività dei loro mezzi di produzione e hanno anche la fatica di cercare nuovi mercati. Quindi noi il lavoro che facciamo all'interno di Confindustria è proprio questo, cioè promuovere la tecnologia digitale per rendere più competitivo il mondo non internet, il mondo del manifatturiero classico, diciamo così. Mi rendo conto che molte delle cose che abbiamo detto ascoltando gli ultimi due interventi, la stragrande maggioranza, direi tutti gli ascoltatori di 2024 le hanno ben presenti, quanto la tecnologia contribuisce o potrebbe contribuire alla produttività, alla competitività delle nostre imprese. Ma se noi le cose le sappiamo, è nostro compito cercare il più possibile di andarle a raccontare a chi ancora non ha capito, insistendo, battendo la testa contro il muro, insistendo, perché prima o poi qualcuno capirà. E non è l'unica soluzione per risolvere i problemi del nostro paese, ma sicuramente è una parte delle soluzioni. Quindi anche fare ascoltare 2024 a, che ne so, politici locali o anche politici nazionali, naturalmente, ma quelli non hanno molto tempo, devono fare le interviste e raccontare e studiare poco. Se qualche politico invece ci sta ascoltando, facciamo a loro i complimenti, perché prima di agire bisogna anche conoscere, sapere e studiare. Dopo quest'ultimo commento, io ringrazio come sempre i nostri ascoltatori che hanno scaricato il file MP3 della nostra trasmissione, ci hanno ascoltato in streaming. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, se volete in diretta, ovvero in onda al sabato dalle 15, la domenica dalle 23, oppure sempre online quando preferite. Un ringraziamento anche ad Anita Panizza e appuntamento alla prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.